notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il nostro programma è quello di procedere con azione civile risarcitoria nei confronti dell'editoriale L'Espresso, chiedendo 10 milioni di euro di danni all'Espresso stesso, ai due giornalisti che hanno redatto l'articolo, al direttore responsabile Luigi Vicinanza, non solo per omesso controllo, ma anche per avere più volte confermato l'esistenza e ribadito l'esistenza dell'intercettazione. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è il programma del legale del Presidente della Regione Sicilia, Crocetta, lui si chiama Vincenzo Lorello, avete sentito qualche giorno fa qui a Effetto Notte, che aveva già detto, appena era scoppiato lo scandalo il giorno stesso, aveva detto delle presunte intercettazioni, citeremo per danni il settimanale Espresso che aveva fatto queste rivelazioni sulle presunte intercettazioni di telefonate tra Rosario Crocetta e il suo medico di fiducia Tutino, e oggi ha detto in conferenza stampa che chiederanno 10 milioni, quindi ha esplicitato la cifra. Ma poi sentiremo qui direttamente Rosario Crocetta, qui a Effetto Notte, un po' per quelli che sono gli ultimi sviluppi della vicenda, perché anche la procura di Caltanissetta, dopo quella di Palermo, che aveva smentito la presenza di queste intercettazioni già il giorno in cui era scoppiata la bufera, oggi ha detto anche la procura di Caltanissetta: noi queste intercettazioni non ne abbiamo proprio traccia, non ci sono. Quindi poi sentiremo il presidente della regione Sicilia, ma parleremo anche di altre cose naturalmente, perché c'è la condanna da parte della Corte Europea dell'Italia perché non ha ancora legiferato sulle unioni civili. Dice, secondo la articolo 8 del rispetto della famiglia, dei sentimenti delle persone, l'Italia deve legiferare in questo senso, deve riconoscere le coppie omosessuali, perché la gran parte dei paesi in Europa, dice, l'hanno fatto. Tranne la Grecia e pochi altri, insomma, Bielorussia, mi sembra. Poi ne parleremo in modo approfondito con il presidente di Gay Lib, presidente dell'associazione dei gay liberali e di destra, che è stato uno dei componenti delle coppie che hanno fatto ricorso alla Corte Europea e che quindi ha avuto ragione. E poi ne parleremo anche con un esperto di diritto europeo. Tra l'altro, la Corte Europea dice una cosa interessante: dice che la gran parte, secondo un sondaggio, la stragrande maggioranza degli italiani sostiene il riconoscimento delle coppie omosessuali, è d'accordo con le unioni gay. Voi siete tra questa maggioranza di italiani? Il vostro modo per intervenire, lo sapete, è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. 349-238-6666. Siete tra la maggioranza degli italiani e delle italiane che siete favorevoli alle unioni civili? Ci occuperemo poi anche di un fatto unico al mondo, che è quello di una ragazza di 18 anni in Francia che ha visto regredire l'HIV, di cui si era ammalata a 2 anni, senza procedere alle cure. Cioè, a un certo punto la malattia è scomparsa, e cercheremo di capire con un esperto come sia stato possibile, se questa cosa apre delle speranze. Intanto, mentre voi fate le vostre riflessioni al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vi vado a raccontare in sintesi la giornata. Il caso Crocetta, il presidente della regione Sicilia dice: non mollo, vado avanti, e chiede 10 milioni di danni all'Espresso, che replica: proveremo la nostra correttezza. Stasera, dicevo, Crocetta, Effetto Notte. Diritti civili, la Corte Europea dei diritti umani condanna l'Italia, riconosca le unioni gay, dice la ministra Boschi, annuncia la legge entro l'anno. Il nucleare iraniano, Renzi incontra il primo ministro israeliano Netanyahu e assicura: vigileremo sul rispetto dell'accordo. I 4 italiani rapiti in Libia, l'inviato ONU ne chiede il rilascio immediato, il ministro Gentiloni dice: sono premature interpretazioni politiche. Siria, sequestrati 3 giornalisti spagnoli, il 17enne è sgozzato, sono stati fermati 2 giovani albanesi, interrogati da diverse ore dai carabinieri, sono sottoposti a fermo e pare che sia stata una brutta storia di gelosia. AIDS, registrato per la prima volta al mondo un caso di regressione dal virus. E partiamo quindi dalla vicenda delle presunte intercettazioni che coinvolge il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta. Oggi anche la procura di Caltanissetta, vi dicevo, ha smentito che esistano delle intercettazioni, delle telefonate come quella citata dal settimanale Espresso, in cui il medico di Crocetta, Tutino, parlava con lui dicendo che l'assessora alla sanità Lucia Borsellino doveva essere fatta fuori come il padre. L'avvocato di Crocetta, che già lo aveva annunciato giorni fa qui a Effetto Notte, ha chiesto quindi un risarcimento danni, ha parlato oggi di cifra 10 milioni da chiedere all'Espresso. processo e più tardi ne parleremo direttamente con Rosario Crocetta. Per i diritti civili, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la violazione dei diritti di 3 coppie omosessuali e dice l'Italia legiferi per riconoscere le unioni gay. E la ministra Boschi ha annunciato poco fa che la legge sarà pronta entro l'anno. Poi, vi dicevo, ne parleremo col presidente di Gay Lib, che fa parte di una delle coppie ricorrenti, e con un esperto di diritto europeo. Siamo al nucleare iraniano, di cui si è principalmente parlato oggi nella visita che Matteo Renzi ha fatto in Israele al primo ministro Netanyahu, il quale ribadisce che l'accordo sul nucleare è una minaccia per Israele. Metterà Teheran, dice Netanyahu, in condizione di avere a disposizione decine di armi atomiche entro 10 anni, ma Renzi ha assicurato: vigileremo sul rispetto dell'accordo. E poi il sequestro dei 4 italiani in Libia, forse può trattarsi di una vendetta di trafficanti di migranti. Tutto quello che si sa è che la Farnesina sta lavorando con urgenza e con l'intelligence. Per il resto ancora tutte le piste restano aperte riguardo agli autori del rapimento dei 4 nostri connazionali in Libia, dei quali le Nazioni Unite chiedono il rilascio immediato e senza condizioni. A dirlo oggi l'inviato speciale ONU per la Libia, Bernardino León, nel punto stampa che si è tenuto al nostro Ministero degli Esteri. León ha condannato con forza il sequestro, definito un gesto inaccettabile, assicurando l'impegno delle Nazioni Unite per raccogliere informazioni sulla vicenda. Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ribadito che dare interpretazioni politiche sui moventi del rapimento è prematuro e imprudente. Sentiamolo. Credo che questo sia il momento non tanto per esercitarsi su retroscena che al momento è difficile individuare, ma sia il momento per mostrare il volto di un paese unito, l'Italia, che ha fiducia nelle forze di sicurezza, nelle forze della diplomazia. È molto improbabile che ci siano motivazioni politiche dietro il rapimento, ha dichiarato l'ambasciatore libico in Italia, Ahmed Safar, che piuttosto alla base del sequestro vede motivazioni criminali. Facile, ha detto, che uno o più trafficanti di esseri umani abbia agito per rappresaglia contro la missione che punta ad individuare le navi che salpano dalla Libia per l'Europa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Invece in Siria 3 giornalisti spagnoli sono stati sequestrati, lo ha riferito la Federazione Nazionale dell'Associazione di Giornalisti. Per tornare in Italia con la cronaca, pare che ci sia uno sviluppo, lo vedo anche adesso dalle ultime agenzie, sulla vicenda del ragazzo 17enne sgozzato a Pesaro, trovato in un dirupo con le mani e i piedi legati. Bene, sono stati fermati, erano già stati fermati nel tardo pomeriggio, 2 giovani albanesi e pare che abbiano agito per gelosia. Prime ammissioni dei 2 ventenni albanesi, la vittima avrebbe avuto una relazione con la fidanzata di uno dei 2. E occupiamoci anche dei 2 suicidi in 24 ore che sono avvenuti nel carcere di Regina Coeli. Il ministro della giustizia annuncia: attendiamo le indagini sull'accaduto, ma c'è bisogno di una riforma. Quello che è avvenuto è la conferma che serve una profonda riforma. Commenta così il ministro della giustizia Andrea Orlando i 2 suicidi nel penitenziario romano di Regina Coeli. I 2 casi sono avvenuti nella stessa sezione del carcere e in servizio c'era lo stesso agente. È stato lui a dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi. Non sarebbe stato quindi disposto alcun cambiamento sui turni programmati a seguito del grave episodio verificatosi la notte precedente. L'UGL penitenziaria, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, parla di 2 agenti in turno per 120 detenuti. I sindacati avevano già parlato di carenza di organico di agenti penitenziari, che sarebbero sotto di 250 unità. Il ministro ha commentato: i numeri in parte sono diversi, ma ciò non esclude che il tema ci sia, e ha sottolineato che è stato già chiesto un aumento delle risorse umane nella legge di stabilità, cercando anche di favorire il recupero del personale distaccato dalle carceri ad altri uffici. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso il caso di stupro di gruppo a Firenze, che sta facendo discutere perché 7 anni dopo i ragazzi che denunciò per stupro sono stati assolti. Lei aveva 22 anni, loro tra i 20 e i 25. Tutto avvenne in un'auto a Firenze dopo una serata trascorsa insieme. Loro erano in 6, in primo grado furono tutti condannati a 4 anni e mezzo di reclusione, ma secondo i giudici d'appello la vicenda, pur incresciosa e non encomiabile per nessuno, è penalmente non censurabile. Il legale della ragazza, l'avvocata Lisa Parrini, ha subito definito la motivazione densa di giudizi morali. La ragazza si è sfogata su un blog, dice: non riesco più a vivere nella mia città, ossessionata da brutti ricordi e dalla paura di ciò che la gente pensa di me. Essere vittima di violenza e denunciarla, dice, un'arma a doppio taglio. Quindi poi si pone l'interrogativo a questa ragazza: se fossi morta sarei stata più credibile? Secondo la Corte d'Appello, con la denuncia la ragazza voleva rimuovere quello che riteneva essere stato un discutibile momento di debolezza e fragilità che una vita non lineare, scrive la Corte, come la sua avrebbe voluto censurare. E c'è stato un femminicidio, non c'è differenza di età, si era nascosto in uno scantinato l'anziano di 82 anni che ha strangolato con le sue mani la moglie di 75 anni, quindi ne sentiamo parlare da chi ha 15 anni fino a 90 anni. Strangolato la moglie durante una lite per futili motivi. Il delitto avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Laviano, in provincia di Salerno. La coppia aveva due figli. E poi parliamo di questo caso, che approfondiremo dopo con un esperto, del virus dell'HIV, della AIDS, che è scomparso in una ragazza di 18 anni. È successo per la prima volta al mondo. L'annuncio fatto a Vancouver alla conferenza dell'International AIDS Society dal pediatra Pierre Frange, una giovane francese di 18 anni contagiata dalla nascita, ha interrotto i trattamenti antiretrovirali a 6 anni, è arrivata a 18 anni e pare che ci sia stata una regressione della malattia. Per il calcio, in chiusura, amichevoli internazionali con sconfitta per Inter e Roma. Tu vuoi farlo juventino? Si potrebbe cantare a Mario Götze facendo un po' i maliziosi. Fatto sta che è lui, l'oggetto dei desideri bianconeri, a segnare il gol partita all'Inter quando nell'amichevole di Shanghai con il Bayern mancavano 10 minuti alla fine, con i titolari già in doccia e le panchine svuotate. Tale è oggi un panchinaro, Götze nello squadrone di Guardiola. Indicazioni per la verità pochine sul fronte interista. Bravo Murillo, prima di uscire, appesantito con Dombia, che ha combinato davvero nulla, e una sottolineatura in rosso di ciò che Mancini ritiene indispensabile. Un laterale sinistro di difesa, in quel ruolo il Mancio ha messo all'inizio quasi provocatoriamente il bambino Di Marco, che mai ha preso la targa a Douglas Costa e ci mancherebbe. In campo dall'altra parte del mondo, in Australia, anche la Roma, partita ben più aperta con il Manchester City, con Romagnoli in campo e con Ljajic che su punizione segna il 2-2 prima dei rigori. L'ultimo lo sbaglia Keita e prima di lui il solito Dumbia. Vince il City, ma con loro la partita è un'altra e si chiama Zeko, che in campo non è sceso. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, questa è la giornata, adesso man mano con gli ospiti scenderemo, diciamo, approfondiremo gli argomenti, scenderemo nei dettagli, nelle storie, nelle vicende, anche nelle novità come questa così positiva, vi dicevo, di questa regressione del virus dell'HIV in una ragazza di 18 anni in Francia. Però stavo guardando intanto i vostri messaggi al 349-238-6666 a proposito della condanna da parte della Corte Europea nei confronti dell'Italia perché non riconosce le unioni gay. Dice però la Corte Europea, la gran parte, la maggioranza degli italiani sarebbe d'accordo. Dice un ascoltatore o ascoltatrice, semplicemente scrive no, non mette neanche il nome. Poi invece sì, favorevolissimo anche alle adozioni. Stefano dice cresciuto in Canada, ma italianissimo. Renato dice io sono favorevole a unioni gay, droghe leggere, libere, due legislature per i politici. Mette tutto insieme il suo programma, Renato. Poi invece Carmen Nicosia scrive che squallida vicenda, quella delle presunte intercettazioni, di cui parleremo tra pochissimo con Crocetta. E poi Costantino, forza Crocetta, restituisci la civiltà all'Italia. Io intanto vi restituisco gli aggiornamenti per chi viaggia e poi approfondiamo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che se avete acceso adesso vi ricordo tra pochissimo, quelle che sono le principali della giornata, ma intanto l'argomento invece che vi ho lanciato per questa sera è quello che riguarda la condanna da parte della Corte Europea dei diritti degli esseri umani nei confronti dell'Italia, che dice che non riconosce le unioni civili. Siete d'accordo o no col fatto che, dice la Corte Europea, la gran parte degli italiani sarebbe d'accordo, quindi è la politica che è più indietro, che non legifera? Stefano scrive: vorrà dire che le prossime decisioni dei nostri politici verranno prese sulla base dei sondaggi d'opinione fatti dalla Corte Europea. E poi Carmen: beh, sondaggio o meno, il riconoscimento legale delle coppie omosessuali è simbolo di civiltà, ho rispettato gli Stati Uniti e il presidente Obama per averlo fatto quando un mese più o meno fa in tutti gli stati della Federazione Americana la Corte Suprema ha deciso che sono legali. Cristiano: se stare insieme significasse amare la terra, brillerebbe come il sole. Adesso c'è qualcuno che si lancia così in impeti poetici. Adesso vi ricordo le notizie più importanti e poi parleremo con Rosario Crocetta. Naturalmente fra le primissime c'è la notizia di cui abbiamo appena parlato, con la decisione dei giudici di Strasburgo nei confronti dell'Italia, decisione che è una condanna. Netanyahu, primo ministro israeliano, ha detto a Renzi, che lo ha incontrato oggi in Israele: l'Iran con il nucleare farà paura, potrà costruire le sue bombe. E Renzi l'ha rassicurato dicendo: sosteniamo l'accordo ma vigileremo appunto che vi sia il rispetto. La notizia della quale si sono avuti gli sviluppi poco fa dello studente di 17 anni ieri trovato sgozzato a Pesaro, sono stati fermati due albanesi, due giovani albanesi che stanno facendo le prime ammissioni dicendo che lo hanno ucciso per gelosia perché è stato fidanzato con la ragazza di uno dei due. Ansia per i quattro italiani rapiti in Libia. Il ministro Gentiloni dice non è il momento per il retroscena, troppo presto anche per fare delle ipotesi. Crocetta, presidente della regione Sicilia, non lascia e chiede all'Espresso come risarcimento danni 10 milioni, lo sentiremo tra poco. E poi il Standard & Poor's, l'agenzia di rating internazionale, che alza il rating, cioè l'affidabilità finanziaria della Grecia. Questa è una notizia CCC più e dice che le previsioni della sua stabilità, insomma, è stabile per il momento. Sparisce, questa è la notizia forte anche del giorno, il virus dell'AIDS succede in Francia per la prima volta al mondo in una ragazza di 18 anni. E adesso torniamo su, perché ci sono delle novità, degli ulteriori sviluppi sulla vicenda della presunta intercettazione di una telefonata compromettente, diciamo così, tra il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, e il suo medico di fiducia, nonché primario dell'ospedale palermitano Villa Sofia, arrestato nelle settimane scorse per truffa, peculato, abuso, eccetera, Matteo Tutino, in cui quest'ultimo avrebbe detto al telefono con Crocetta, Lucia Borsellino, cioè l'assessora regionale alla sanità che si è dimessa nei giorni scorsi, va fermata, va fatta fuori come suo padre, così avrebbe detto Tutino al telefono con Crocetta, fatta fuori come suo padre, cioè come il giudice Borsellino ucciso nel luglio 1992. All'altro capo del telefono, appunto, ci sarebbe stato, secondo questa anticipazione e poi pubblicata dal settimanale Espresso, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ci sarebbe stato il governatore della Sicilia Crocetta. E la cosa, diciamo, che ha creato lo scandalo, secondo questa rivelazione dell'Espresso, è che Crocetta non ha risposto nulla, è rimasto in silenzio, non si è indignato, non ha reagito, insomma, a questo commento macabro di Tutino. Una vicenda, insomma, dalle forti implicazioni politiche prima di tutto, ma anche etiche, umane, che da un po' tiene col fiato sospeso, perché davvero si ha voglia di fare chiarezza su questo mistero, questo giallo della Sicilia. E tra l'altro una vicenda anche piena di colpi di scena, perché mentre Crocetta diceva di non saper nulla di questa telefonata, che probabilmente, dice, io non l'ho sentita questa telefonata, si è autosospeso, perché è stato attaccato da più parti, anche dal suo partito, dal PD, che ne ha chiesto le dimissioni, e proprio ieri Orfini, presidente del partito, ha detto non escludiamo la sfiducia. Poi in quei giorni così caldi, la settimana scorsa, Lucia Borsellino aveva detto mi vergogno per loro. Se non che la procura di Palermo, nella stessa giornata della settimana scorsa in cui era scoppiata tutta questa vicenda, aveva smentito a fine giornata che esistessero, che fossero agli atti, telefonate o intercettazioni di questo tipo. L'Espresso però, sempre poi in serata della scorsa settimana, aveva, con la dichiarazione del direttore vicinanza, aveva ribadito con forza l'esistenza di questa intercettazione. Oggi poi però è arrivata anche la smentita della procura di Caltanissetta, attraverso il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, che anche lui ha detto, ed era l'altra procura che, insomma, avrebbe potuto indagare su Tutino, ma e dice non esiste questa telefonata. E poi che cosa è successo? Che in un'intervista che c'è oggi su Repubblica, Lucia Borsellino dichiara che si è sentita boicottata nella giunta Crocetta sin dall'inizio, che è stata tenuta all'oscuro di tante cose, che ha ricevuto anche diverse pressioni per sistemare vari manager, e che quindi si è sentita, insomma, troppo in contrasto con questa giunta e si è dimessa. Crocetta replica però che lui l'ha sempre protetta e che si è sentito tradito da quanto è successo, da quanto le ha detto, dalle sue dimissioni. E a questo punto allora sentiamo direttamente il protagonista, suo malgrado, o non so come dire, insomma, il presidente della regione, perché è tornato nel suo ruolo, il presidente Rosario Crocetta. Buonasera Crocetta. Buonasera. Buonasera, grazie della disponibilità. Senta, innanzitutto come si sente? Beh, adesso mi sento meglio, perché dopo la smentita anche non solo della procura di Palermo, ma anche quella di Caltanissetta, l'ultima, cosa si aspetta? Che intervenga l'Interpol, la CIA, per dire che quello è un dossier bluff? Ma secondo lei si è fatto un'idea da dove possa essere venuta tutta questa vicenda, questo dossier, come dice lei, da dove è nato? Intanto io volevo dire una cosa, anche perché questa è molto bella, per dire cosa io intendo per lotta alla mafia. Proprio oggi la regione ha assunto 13 testimoni di giustizia, che voglio ricordare non solo i pentiti, ma quelli che denunciano il racket e la mafia, e già ne abbiamo assunti 26, e siamo l'unica regione d'Europa che lo fa. È chiaro che questo può avere creato problemi e crea problemi a poteri occulti che sono palermitani, che hanno sempre gestito il sistema di potere nella regione e che possono avere tratto anche in inganno con una bufala anche un giornale come l'Espresso, e questo mi dispiace molto. Però qui c'è una vicenda terrificante in cui un uomo viene ucciso in diretta ed è un uomo che è stato costretto persino ad andare dalle forze dell'ordine, è stato costretto ad andare in processione con giubbotto antiproiettile o fare i comizi con giubbotto antiproiettile, che ha uno dei sistemi di sicurezza, dispositivi di sicurezza più alti d'Italia, fra le 20 personalità più protette d'Italia, che va, è sempre scortato anche quando va all'estero, e che da oltre 12 anni vive come un prigioniero in una casa con vetri da 4 dita di anti Kalashnikov e con le sbarre alle finestre da dove entra la luce polverosa, diciamo. È veramente allucinante tutto questo, accusato quasi di concorso in strage, cioè di non aver reagito a una presunta telefonata. Per chi non conosce me e per chi sta a Milano e non conosce l'epicentro in Sicilia, io come sono stato presentato, quasi una specie di ruina, no? E questo è veramente mostruoso, e non riesco più a comprendere coloro che dopo le smentite delle procure continuano a fare discorsi ancora allucinanti, col dubbio. L'intercettazione non può esistere per un semplice motivo, che quando una persona è intercettata da tutti, se in questo momento qualcuno ci sta intercettando a quest'ora, tutti coloro che intercettano il mio dispositivo telefonico registreranno la stessa cosa. Quindi se non esiste per le procure di Palermo, di Caltanissetta, che quindi non c'è, può esistere, Presidente, ma dica una cosa, l'Espresso deve prendere atto di questa verità tecnica, e infatti il suo avvocato ha chiesto 10 milioni di danni. Se ha qualcosa, soltanto spazzatura, e quella stessa spazzatura la deve mostrare, la deve portare alla Procura della Repubblica, perché questo è un attentato a un organo costituzionale dello Stato. Non ci si può trincerare dopo il dietro il fatto che il giornalista può segretare la propria fonte di informazione, e lo deve agli italiani. E su questo siamo d'accordo, Presidente, ma rispetto a quello che ha detto il PD in questi giorni, inizialmente aveva chiesto le sue dimissioni, poi ieri Orfini ha detto non escludiamo la sfiducia. Che rapporti ci sono? Adesso ha sentito Renzi, per esempio? Guardi, io non sento nessuno, per il semplice motivo che qui parlano i fatti. Se poi il PD vuole partecipare per bieco calcolo elettoralistico o di ragion di Stato al massacro di un innocente, allora non vuol dire che non è in grado di tutelare le garanzie democratiche di questo Paese. Il PD ha tutti gli strumenti per accertare la verità, e al governo, il governo nomini una commissione d'inchiesta su questo e vediamo se c'è una sola ombra che riguarda me, che fino a proprio me ne sono stato sindaco e non sono stato mai coinvolto in cose illegali, da Presidente della Regione neppure. Si sente abbandonato da Renzi, Presidente Crocetta? Ma io non mi sento abbandonato da nessuno, per il semplice motivo che nel mio profilo WhatsApp ho scritto un verso di Dario Bellezza che recita: chi è solo nell'ombra sa. La mia solitudine la considero un elemento di consapevolezza. Nella propria vita ciascuno si fida sicuramente del proprio parroco, del proprio confessore, del proprio medico e del proprio avvocato. E io non è che faccia tante frequentazioni, non frequento quasi nessuno a Palermo. Mi sono fidato del mio parroco, del mio confessore, quando disse che la mia omosessualità la consideravo un dono di Dio, mi ha sconfessato. Poi abbiamo fatto pace. Mi sono fidato del mio medico e mi ha tirato i miei guai. Spero che non mi si dire pure il mio avvocato, perché sarebbe troppo, sinceramente. Senta, proprio a questo proposito delle persone di cui si è circondato, Fausto Raciti, che è il segretario regionale siciliano del PD, ha detto: io ho difeso Crocetta da queste telefonate intercettazioni che non esistono, dice, però dalle altre no, perché queste intercettazioni confermano quelle vere l'esistenza di un cerchio magico che ha messo in piedi e che gli sta facendo perdere la faccia. Ma quale cerchio magico? Ci sono tanti millantatori che fanno il nome di tutti. Io ho fatto anche degli esperti della Repubblica di gente che a nome mio è andata a, si è accreditata a nome mio. Questo succede a tutti i politici italiani, o anche di nome di altri, di uomini del governo, succede a chiunque, perché magari questo può succedere. Ma qual è il cerchio magico? Le faccio un'ultima domanda, e conferma che non si dimette perché dice lei è un combattente, ma che potrebbe far anticipare la chiusura della legislatura in accordo magari con Parlamento, maggioranza, PD, e quindi andare al voto? Io in questo momento non mi dimetto, perché ho un dovere di fronte al popolo italiano. Voglio capire se questa è una democrazia compiuta che rispetta, che dà più fiducia alle parole che vengono da un tribunale e dai magistrati, oppure agli eversori che vogliono fare crollare la democrazia. Questa è la mia sfida. E su questo io credo che ormai nel nostro paese ci si debba mobilitare tutti per dire basta a potentati che possono decidere di far cadere governi, che possono distruggere uomini, che possono fare mandare in galera persone che poi si rivelano innocenti, che possano fare suicidare la gente che poi si dimostra innocente. Noi abbiamo bisogno anche qui di mettere il distinguo. In un paese democratico chi decide se una persona è responsabile o colpevole è soltanto il giudizio dei magistrati. Non possono essere le accuse gratuite inventate di chiunque, e non può essere sicuramente un giornale che magari non vuole ammettere una bufala soltanto per mantenere la reputazione a dettare una linea politica. Questo sarebbe veramente grave. I fatti parlano. Se questo viene fatto nei confronti di un presidente di regione, figurarsi cosa può capitare a qualsiasi normale cittadino. È venuto veramente il momento persino di insorgere contro queste schifezze. Presidente Crocetta, quindi la sua esperienza politica continua, perché continua la sua battaglia, sta dicendo. Ma certo, io non mi posso dimettere con queste motivazioni, assolutamente. Mentre una cosa diversa è la politica. Ritengo che in questo momento la Sicilia rischia una situazione greca. Sono i problemi della quadratura del bilancio. Non voglio che in questo momento la Sicilia vada in default. Ci sono i poveri che non hanno nessuna tutela. Io chiedo che si faccia una legge per i poveri, per una forma di reddito di dignità in una regione che ha una disoccupazione spaventosa, che si faccia una legge per fare quadrare il bilancio, che si attuino quelle misure necessarie a salvare la Sicilia, perché il default della Sicilia coinvolgerebbe il rating italiano. Io non posso essere un irresponsabile che in nome delle campagne elettorali di qualcuno possa pensare in questo momento di creare un vulnus così terribile alla Sicilia, al popolo siciliano e persino all'Italia. Però una cosa è fare delle valutazioni politiche, un'altra cosa è tentare di imbancare l'onore di un uomo. Io nella mia vita, per me, la mia vita per me vale due cose. Allora, l'onore e la libertà. Mi faccio finire questa frase. L'onore e la libertà. Alla libertà ci ho rinunciato da 12 anni perché vivo come un prigioniero colpevole di combattere la mafia, ma al mio onore non ci rinuncio. Buona continuazione allora, Presidente Crocetta. Grazie. Grazie. Bene, adesso prima di lasciarci, naturalmente solo per una breve pausa di ricreazione, volevo leggere ancora i vostri messaggi brevemente al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove per esempio a proposito dell'argomento di cui parleremo tra poco, della Corte Europea che ha condannato l'Italia perché ancora non ha legiferato sulle unioni gay, dice Federica: sono sia per le unioni civili che per il matrimonio LGBT, ma speravo ci arrivassimo da soli, non perché lo comanda l'Europa, persino la Cattolica Irlanda ci è arrivata prima di noi, che tristezza, dice Federica. Poi ancora tra pagina Facebook e il 349-238-6666 chiede un ascoltatore: Crocetta, se l'intercettazione è falsa non può essere un boccone avvelenato per colpire anche l'Espresso? Ma qui si apre ulteriormente la questione, ma mi sembra che Crocetta abbia detto tutto quello che doveva dire. Poi sentiremo se nei prossimi giorni si faranno sentire anche qui Effetto Notte dall'Espresso. Massimo dice: sono favorevole perché gli omosessuali devono per giustizia poter accedere agli stessi istituti economici e amministrativi garantiti agli eterosessuali. Poi Mauro da Cesena: no ai matrimoni gay, qualunque sia il nome usato per mascherarli. Tra un po' l'Unione Europea sponsorizzerà anche il matrimonio col cane e col gatto, dice Mauro. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, naturalmente sempre fino alle 22, Roberta Giordano con voi. Mi stavo leggendo i vostri tantissimi messaggi, stanno arrivando, specie al 349-238-6666, ma scrivete anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito dell'argomento che tratteremo tra pochissimo, cioè della condanna nei confronti dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul fatto che l'Italia non abbia ancora legiferato sulle unioni civili. Leggo qualche messaggio, poi vi ricordo le notizie principali e poi passiamo direttamente a questo tema. Per esempio Emilio, mi pare da Firenze, dice: giusti diritti civili senza equiparazione al matrimonio, ma leggi per aiutare le famiglie nessuno le fa più, dice Massimo. Sono favorevole perché gli omosessuali devono per giustizia poter accedere agli stessi istituti economici e amministrativi garantiti agli eterosessuali, che poi si chiami matrimonio, unione civile o coppia di fatto, poco importa, quel che conta è la sostanza, dice Massimo. Poi invece c'è Clotilde: ma certo che ci sono che sì, sono i diritti inclusivi e quindi a me tutti e agli etero non levano niente, certamente non sono loro a mettere a rischio la famiglia tradizionale, ci pensa molto bene da sola. Poi la pagina Facebook tra pochissimo li leggeremo, ma adesso vi ricordo quali sono le notizie principali. Una tra l'altro proprio di adesso, a proposito dell'argomento immigrazione: sono in agitazione i prefetti italiani dopo la decisione di rimuovere quello di Treviso. Dicono: siamo stanchi e lasciati soli. Claudio Palomba, presidente del SIMPREF, il sindacato dei prefetti, ha chiesto un incontro ad Alfano. E poi il caso Crocetta: il presidente della regione Sicilia dice: non mollo, vado avanti, chiede 10 milioni di danni all'Espresso, che replica: proveremo la nostra correttezza. Stasera l'avete sentito, Crocetta, Effetto Notte, ha detto: tirino fuori quella che è spazzatura, che in realtà non esiste, vado avanti con la mia battaglia e al mio onore non rinuncio. Diritti civili, la Corte Europea dei Diritti Umani che condanna l'Italia, ne parleremo tra pochi istanti. Il nucleare iraniano: Renzi incontra il primo ministro israeliano Netanyahu e assicura: vigileremo sul rispetto dell'accordo sul nucleare. I quattro italiani rapiti in Libia, c'è apprensione, l'inviato ONU ne chiede il rilascio immediato. E poi il 17enne sgozzato a Pesaro: sono stati fermati due giovani albanesi interrogati, hanno cominciato a fare le prime ammissioni, a dire che lo avrebbero ammazzato per gelosia. AIDS registra stato per la prima volta al mondo un caso di regressione del virus. Europa 24 notte. Dunque, l'argomento che vi sottoponevo all'inizio, e state continuando a scrivere messaggi, poi tra una chiacchierata e l'altra con gli ospiti ne leggerò ancora qualcun altro. Dicevo, a proposito delle unioni gay, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la violazione dei diritti di tre coppie omosessuali, e in particolare, scusate, per quanto riguarda l'articolo 8 della Convenzione Europea, il diritto cioè al rispetto per la vita privata e familiare. L'Italia deve quindi, secondo la Corte Europea, introdurre il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso. Il giudizio è stato emesso all'unanimità nell'ambito di un caso sollevato da Enrico Oliari e altri contro l'Italia. Oliari ha 45 anni, presidente di Gay Lib, che è l'associazione nazionale dei gay liberali e di centrodestra, e ha fatto ricorso a Strasburgo nel 2009 contro l'impossibilità di vedersi riconoscere in patria la sua unione. Enrico Oliari è in collegamento. Buonasera Oliari. Buonasera a tutti. E c'è anche Roberto Virzo, che è docente di organizzazioni internazionali all'Università Luiss e all'Università del Sannio. Buonasera Virzo. Buonasera. Oliari, allora ci racconta in breve un po' con questa vicenda e quindi anche, immagino, la soddisfazione per questa sentenza, condanna della Corte Europea? Soddisfazione, voglio ricordare che si tratta comunque di una situazione che vede l'Italia fanalino di coda nell'Europa occidentale, cioè praticamente le unioni dello stesso sesso attraverso il matrimonio, attraverso l'unione civile, quello che vogliamo, sono riconosciute in tutta l'Europa occidentale, ad esclusione anche in Italia, in Grecia, sono riconosciute anche nei paesi dell'Europa orientale, in tutte le Americhe, ma qui siamo dal contesto in Sudafrica, in Australia, eccetera. Cioè praticamente se due uomini o due donne sono sposate ad esempio in Spagna o sono unite nella Lebenspartnerschaft in Germania, in Italia sono semplicemente due buoni amici che convivono, è una cosa che è ormai al di fuori della storia. Quindi grande soddisfazione per un iter che è iniziato 8 anni fa in un modo anche abbastanza curioso, nel senso che io e il mio compagno ci siamo presentati in comune all'anagrafe e abbiamo fatto richiesta di delle pubblicazioni matrimoniali. Ovviamente nell'imbarazzo della signorina che era seduta dietro la scrivania, la quale è andata a chiamare il capo, per poi avere questo diniego scritto, ricorrere al primo grado di giudizio. Da lì per noi è andata male, quindi siamo ricorsi in appello. In appello è stato rinviato il tutto alla Corte Costituzionale con la sentenza 138/2010, no? E già lì, quindi 5 anni fa, la Corte Costituzionale raccomandava al Parlamento di legiferare in materia. E i nostri parlamentari sostanzialmente se ne sono altamente fregati, motivo per cui a noi non è restato altro da fare che ricorrere alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, lì finalmente siamo riusciti ad averla avuta vinta. Oliari, tra l'altro qualcuno potrebbe pensare è una battaglia di sinistra, ma voi invece vi chiamate Gay Lib, cioè Associazione Nazionale dei Gay Liberali di centrodestra. In realtà ci sono tante destre diverse, per esempio Cameron, conservatore in Gran Bretagna, è quello che ha fatto passare col suo governo i matrimoni. È italiana quella di schierare determinate battaglie da una parte o dall'altra. L'omosessualità di sinistra, cioè non è vero niente, l'omosessualità è una cosa neutrale, semmai bisogna fare delle lotte all'interno dei partiti per portarle ad avere delle aperture e magari arrivare al passo anche in questo caso delle altre destre europee, dove io posso tranquillamente vedere dalla Francia alla Francia con l'UMP, già c'erano il PACS in Gran Bretagna, ma anche in Islanda, tanto per dire, cioè sono paesi o anche nell'altra tedesca CDU, sono state portate avanti delle battaglie che oggi sono realtà e che vedono appunto i diritti sotto diverse forme di riconoscimento dell'Unione. Oliari, ma a proposito di destra italiana, sa che da un po' Berlusconi, che prima gli scherniva, devo dire, faceva non poche battute sui gay, da quando c'è stato l'avvento della Pascale credo che abbia cambiato un po' idea. Sentiamo per esempio Carfagna che cosa ha detto in proposito. In Italia la questione della regolamentazione delle unioni civili è sempre stata affrontata con un approccio ideologico e strumentale. Credo invece che la politica abbia il dovere di assumersi le sue responsabilità e di costruire un quadro normativo all'interno del quale definire diritti, doveri e responsabilità di quelle persone che già vivono in una condizione di coppia, come anche ci ricorda una sentenza della Corte Costituzionale del 2010. E sempre a proposito di centrodestra italiano, invece una posizione opposta, più o meno opposta che quella dell'ex ministro Lupi del nuovo centrodestra. Smettiamola di strumentalizzare le sentenze della Corte Europea. La Corte Europea non può togliere la sovranità al Parlamento italiano e al popolo italiano. In Italia si sta lavorando per fare una legge sulle unioni civili che non equipari le unioni civili al matrimonio e non permetta, questa è la nostra posizione, l'adozione dei figli alle coppie che convivono dello stesso sesso oppure la pensione di reversibilità. Allora, su questa cosa dell'adozione si dibatte moltissimo, Enrico Oliari, e vedo anche ascoltatori che dicono sono per le unioni omosessuali maschili e femminili, ma non credo sia giusto per l'equilibrio dei figli che abbiano dei figli, anche se non mi pare che sia il tema principale nella possibile legge sulle unioni civili. Però questa cosa della reversibilità della pensione, e qua coinvolgo anche Roberto Virzo, è mai possibile che il problema sia questo, cioè di vietare a persone che, non dico, quindi non sono straniere, sono cittadine e cittadini italiani che pagano le tasse regolarmente, che hanno il loro percorso professionale, a loro però se si mettono una persona dello stesso sesso non viene riconosciuto quello che viene riconosciuto alle persone eterosessuali, di pensioni che si sono guadagnate con i contributi nel tempo e quindi possono avere una reversibilità? Sì, sono d'accordo, si tratta di una violazione abbastanza palese. Anche Oliari lo ricordava prima, e del resto è scaturita proprio dal loro ricorso la sentenza della Corte Costituzionale del 2010, la numero 138, mette in luce questo aspetto, cioè si tratta di una violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, ci sono discriminazioni. La Corte Europea non ha avuto bisogno di soffermarsi sull'articolo 14, sul divieto di discriminazioni, perché ha comunque ricordato nella sentenza odierna che c'è il diritto per le persone dello stesso sesso ad avere una propria vita familiare, che è sancito dall'articolo 8 e quindi non è andata oltre, non ha avuto bisogno di soffermarsi anche sull'articolo 14, ma la Corte Costituzionale in quella sentenza invece aveva proprio sottolineato le discriminazioni alle quali le persone omosessuali sono sottoposte in un ordinamento dove invece non ci possono essere discriminazioni. Volevo anche sentire Oliari su questa cosa. I detrattori dicono: ma in realtà chiede le unioni civili, la Corte Europea, non il matrimonio. E tra l'altro con un comunicato il Forum delle Associazioni Familiari ha detto che ricorda come l'Italia possa ricorrere contro la sentenza appellandosi alla Grande Chambre. Sì, è vero, l'Italia ha 90 giorni di tempo per appellarsi, però sarà da vedere, perché comunque questa sentenza capita proprio nel giorno giusto, cioè la proposta di legge Cirinnà in questo momento è un po' ferma nelle commissioni, nella Commissione di Giustizia, no? E questa sentenza di oggi capita oggi e potrebbe dare magari una spintarella o irrobustirla. Beh, la ministra Boschi poco fa ha annunciato che entro l'anno ci sarà, già l'aveva detto Renzi qualche tempo fa, ma lei lo ha ricordato, entro l'anno ci sarà questa legge. Qualche sera fa c'era qui il sottosegretario Scalfarotto, che stava facendo un sciopero della fame che credo abbia interrotto in questi giorni, che anche lui cercava in questo modo di accelerare la legge. Abbiamo buone speranze, secondo lei, Oriali? Ma io penso sì che sia arrivato il momento, però comunque è tardivo, perché la situazione è comunque una situazione di discriminazione che si vive ogni giorno. Non è solo una questione di diritti, è anche una questione di doveri, cioè il fatto che un partner è obbligato ad assistere, a prestare assistenza all'altro partner. Questi sono i diritti che noi chiediamo. La questione della reversibilità della pensione, che fa tanto paura ad un partito che è nella maggioranza, quindi il nuovo centrodestra, la Lupi e via dicendo, io dico, ma non capisco, abbiamo gli stessi doveri, non possiamo avere gli stessi diritti. È una cosa che un pochettino mi fa inorridire, cioè loro vorrebbero mettere lì un contenitore vuoto per cui andate ad unirvi civilmente davanti, non so, al sindaco e poi tutto finisce lì. Ma non è così che stanno le cose, perché comunque un'unione, che sia matrimoniale, che sia unione civile, si vive nella quotidianità, e quello che bisogna fare insieme in un quadro di diritti e di doveri. Roberto Virzo, mi scusi professore, adesso quale potrebbe essere il prossimo passo? Cioè non è comunque vincolante questa condanna della... No, la sentenza è vincolante, l'articolo 46 della Convenzione per i diritti dell'uomo prevede l'obbligatorietà delle sentenze della Corte, quindi l'Italia deve conformarsi. Certo, l'Italia ha un obbligo di riparazione nei confronti dei ricorrenti, ai quali vanno i miei complimenti. Non è però previsto, come avete più volte detto, un obbligo per l'Italia di modificare dal punto di vista strutturale, però anche per correggere quello che è stato detto da alcuni radiospettatori e da anche qualche politico, in realtà questo obbligo è stato affermato dalla stessa Corte Costituzionale, prima ancora della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non è solo l'Europa che ce lo impone, ma è la Corte Costituzionale italiana, che ripetutamente, la Corte Costituzionale italiana dal 2010 chiede che il Parlamento, in una Repubblica parlamentare spetta a questo organo costituzionale, legiferi, provveda a ovviare alle discriminazioni alle quali vanno incontro le persone omosessuali. Anche questo fatto della reversibilità della pensione, sono d'accordo con Oliari, anche dal punto di vista giuridico una legge deve essere una legge non discriminatoria dal punto di vista sostanziale. Se una legge continua poi a prevedere delle discriminazioni tra categorie di cittadini, comunque è una legge che prevede delle discriminazioni indirette e quindi ci troveremmo sempre allo stesso punto, quindi non credo che sia questa la soluzione, quella prospettata dal Ministro Lupi. La legge deve essere fatta, ma deve essere una legge che prevede diritti sostanziali. Vediamo se ci sarà allora allora un'accelerazione a questo punto? Ce ne sono state varie di puntate, diciamo, in questo senso da parte della Corte Costituzionale, Corte Europea, eccetera. Per il momento comunque chiudiamo qui. Grazie Enrico Liari, grazie professor Roberto Virzo. Grazie, buona serata. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E tra pochissimo parleremo di questo caso straordinario avvenuto in Francia, però vi ricordo molto velocemente le altre notizie. Abbiamo appena parlato della condanna da parte di Strasburgo all'Italia, riconosca le unioni gay. E poi Renzi, che ha fatto visita al primo ministro israeliano Netanyahu, dicendo che l'Iran con il nucleare farà, ha detto Netanyahu, probabilmente paura, riuscirà a costruire le sue bombe, ma il premier italiano ha detto sosteniamo l'accordo e vigileremo perché sia rispettato. Questa novità che riguarda lo studente di 17 anni trovato sgozzato a Pesaro ieri in un dirupo, sono stati fermati due giovani albanesi, stanno facendo le prime ammissioni, il movente sarebbe stato la gelosia. C'è sempre ansia per i quattro italiani, tecnici italiani rapiti in Libia. Il ministro Gentiloni dice non è il momento però per il retroscena. Crocetta non lascia, il presidente della regione Sicilia, lo avete sentito qui a Effetto Notte sulla vicenda delle presunte intercettazioni. E poi il caso del virus dell'AIDS sparisce per la prima volta da una 18enne in Francia, ne parliamo adesso. E ne parliamo con il professor Carlo Federico Perno, docente di virologia all'Università di Roma Tor Vergata. Buonasera, professor Perno. Buonasera a lei. Quindi, da questa l'annuncio è stato fatto a Vancouver, alla conferenza The International AIDS Society, dal pediatra Pierre Frange, su questa ragazzina di 18 anni che era malata da piccola e a un certo punto, all'età di 6 anni, ha smesso di prendere gli antiretrovirali, però ora la malattia è regredita. Vedo un ascoltatore, Erminio, che scrive: questo non è il primo caso al mondo di regressione della infezione HIV, i casi di regressione spontanea da malattie incurabili ci sono, ma la medicina ufficiale dà loro poca importanza. È vero o è proprio il primo caso, professore? Allora, guardi, innanzitutto mi permetta di inquadrare il caso. Certo. Proprio per evitare di fare da un lato allarmismi e dall'altro false speranze. Ecco, sì, conviene inquadrare il caso. Allora, questo è il caso di una ragazza, oggi 18enne, che alla nascita è stata infettata dalla madre sieropositiva e sarà trattata prima con la ZRT, poi con quattro farmaci antivirali. La carica virale era praticamente sparita, poi per ragioni, diciamo, genitoriali, cioè i familiari hanno optato per interrompere la terapia. La terapia è stata interrotta e, diciamo, in maniera del tutto inusuale, il virus, che sempre ritorna indietro in questi casi, in questo caso non è tornato indietro. Qui non è ricomparso, quindi in sostanza, a distanza di 12 anni dall'interruzione del trattamento, la ragazza ha ancora una carica virale, cioè la quantità di virus nel sangue che non si riesce a riconoscere. Però attenzione, qui bisogna fare chiarezza, la ragazza rimane sieropositiva, cioè non possiamo assolutamente definirla guarita, la guarigione è la scomparsa del germe dall'organismo, qui non si parla di questo, si parla però di un organismo che è in grado di controllare un virus mortale senza il supporto dei farmaci antivirali, e questo è veramente inusuale, soprattutto per la durata, perché abbiamo una durata di circa 12 anni, noi vediamo, come dice bene l'ascoltatore di prima, noi ne vediamo di casi nella mia pratica, io ne vedo 2, 3, 4 all'anno senza problemi, però così a lungo non è frequente e questa è la grande novità. È probabile che vada avanti così definitivamente, professor Perno? Bella domanda. Allora, i casi che finora abbiamo riscontrato, parliamo per esempio di quella che sarà chiamata la Mississippi Baby, questa bambina che era molto simile a questa ragazza francese, è stata interrotta la terapia e dopo 2 anni il virus è ritornato. Finora quasi nessun caso ha visto situazioni di questo tipo, quindi io non ho la palla di vetro, però posso dirle che nella stragrande maggioranza dei casi il virus lentamente ritorna. Però la notizia rimane importante, cioè c'è una persona, ci sono delle persone, poche ma ci sono, che riescono a controllare l'evoluzione della malattia senza l'ausilio di farmaci antivirali. Il problema è proprio questo, studiare queste persone e capire che cosa hanno di particolare che permette loro di controllare il virus senza l'ausilio dei farmaci. Speriamo, che è quello che manca alla gran parte dei pazienti. Speriamo che si capisca allora il prima possibile, professore, così che si possa anche allargare ad altri pazienti. Grazie intanto, professor Perno. Grazie, grazie, buona serata. Noi ci dobbiamo a questo punto lasciare moltissimi vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note, molti stasera al 349-238-6666, però adesso non c'è più tempo, poi mi leggerò gli altri per conto mio. Sapete che poi ci sentiamo giusto alle 22 per gli aggiornamenti.